no, la soglia, come dire, limite era il 70%, e come hai detto tu, si è scesi sotto e sono 8 punti percentuali che un po' sballano i piani della Fiat, e oggi cercavamo di ragionare insieme agli operai, oggi è il giorno dopo e quindi si può riflettere un po' più a freddo, insomma, su quello che è accaduto nei giorni passati. C'è stata una marcia, come abbiamo raccontato appunto sì, qualche giorno fa, a favore del sì, insomma sono stati giorni molto concitati e stressanti, se vuoi, sotto molti punti di vista. No, il dato che emerge è che i no, la somma dei no non coincide con gli iscritti allo Zlaikobas e alla FIOM, cioè i sindacati che si sono opposti all'accordo. Questa è la notizia più importante, perché nessuno lo immaginava, cioè tutti, lo dico perché scrive, ci immaginavamo al massimo che gli iscritti alla FIOM avrebbero votato no come aveva chiesto la FIOM. A me se non concesso che tutti la pensassero esattamente come la FIOM. Qui quanto balla di numeri? Beh, c'è un 12-15% in però. Più. E abbiamo capito, parlando con gli operai, che è stato sia il sì che il no sono stati appunto dei voti tormentati. Cioè qualcuno uscendo diceva ho votato sì, ma adesso mi sputerei in faccia. Quindi e non è che ci fosse questa convinzione assoluta, anche se poi c'era un nocciolo duro di chi invece ha votato sì senza alcun dubbio. E tra i no ci sono anche molti operai non iscritti al sindacato, cioè senza tessera, e molti giovani, perché in qualche modo si paventa e si è già paventato negli anni passati un conflitto generazionale tra la generazione dei figli degli operai Alfa assunti nell'89. Nell'89 l'Alfa fece un'infornata di 2000 operai, tutti con famiglia, figli, spesso mogli casalinghe, per cui sarebbero disposti a tutto pur di lavorare di più e guadagnare di più, perché è utile ricordarlo, questo accordo prevede 120 ore di straordinario in più che, tradotti in quattrini, valgono 2400 euro netti l'anno. E i giovani, un po' i bamboccioni, se mi permetti, dai 20 ai 29 anni, assunti dal metà del 2000 in poi, intorno al 2004-2005, che invece non hanno nessuna intenzione di sposarsi, cioè hanno capito già come gira il mondo, sì, adesso vivono con mamma e papà e non rinuncerebbero per nessun motivo al mondo alla movida, a questo fine settimana, e che, come sai, invece la richiesta della Fiat era proprio quella adesso, di lavorare la notte del sabato e della domenica.